Mi buon pomeriggio a tutti da Giorgio Telesforo, benvenuti al soundcheck di Radio 24, benvenuti in una puntata dove parleremo del suono, l'importanza del suono per un musicista, l'importanza del suono per la discografia contemporanea, riuscire a mettere insieme il suono analogico di un tempo, quello vero degli strumenti, con l'elettronica e il digitale. E per parlare di tutto ciò ho invitato al nostro soundcheck un esperto di suoni, un manipolatore di suoni, un soundmaker d'eccezione, ormai famoso in tutto il mondo con le sue produzioni discografiche, italiano, italianissimo, direttamente da Napoli, anche se sono più di 20 anni che vive a Roma, pur girando il mondo. Questo signore si intitola Martux M, ovvero Maurizio Martuscello. Maestro, benvenuto al soundcheck. Grazie Giuseppe, sei molto gentile, grazie a Radio 24, buon pomeriggio a tutti e grazie di avermi invitato. Ti ho invitato per parlare dell'importanza del suono per un musicista e per la discografia. Un musicista è riconoscibile anche dal suono e quindi studiare per trovare un sound personale, come si fa? Guarda, una delle prime cose che ho imparato dai grandissimi con i quali ho avuto la possibilità di collaborare e anche da musicisti con i quali ho fatto proprio lezione, mi ricordo Peter Eskin oppure Steve Gadd, la prima cosa che mi hanno... Parliamo di batteristi perché sei batterista, in origine. In origine sono batterista, sì, nasco come batterista. E la prima cosa che mi hanno insegnato, che mi hanno detto, che il suono è più del 50% della caratteristica di un musicista, quindi concentrarsi sul suono era una cosa molto importante. Chiaramente l'elettronica, a differenza degli strumenti tradizionali, ha proprio in sé la possibilità di lavorare sul suono, su tutto il range delle frequenze, quindi da lì c'è tanto da trovare. Qual è la tua storia come musicista? Tu hai iniziato come batterista suonando un po' di tutto, ma con la grande passione per il jazz, e poi che hai scoperto l'elettronica, come? Guarda, l'elettronica l'ho scoperta dopo aver suonato con tanti musicisti di jazz, Danilo Re, Rita Marco Tulli, erano Paolo Damiani, i primi gruppi di Paolo Damiani. Poi la mia grande passione per l'ICM, l'etichetta discografica tedesca, era un'etichetta che si caratterizza soprattutto sul suono, sulla grande capacità di creare delle atmosfere magiche. Quella folgorazione mi ha portato alla ricerca verso l'elettronica di Stockhausen, parlo di un'elettronica insomma molto complessa da un certo punto di vista, io direi quasi un'elettronica oggi inascoltabile, però che sul suono punta tutta la sua caratteristica, e da quel momento in poi mi ha appassionato tutto il mondo dell'elettronica, dai Massive Attack ai Weather Report. Allora, parlando proprio del suono, ti faccio ascoltare qualcosa di nuovissimo, appena pubblicato, proprio ieri è partita la distribuzione digitale su iTunes e il disco sarà prestissimo nei migliori negozi e anche nei peggiori negozi di dischi. Vi sto parlando ancora una volta del bellissimo album prodotto da Robert Glasper, pianista americano della nuova generazione, ha già vinto il Grammy Award come miglior album R&B nella passata stagione, ritorna con Black Radio 2 e qui incontra un'altra best seller della Blue Note Records, la bellissima e bravissima Norah Jones, in questo brano intitolato Lady Ride, qui al soundcheck di Radio 24. Jones incontra Robert Glasper da questo nuovissimo album Black Radio 2. Allora, che ti pare il suono, Maurizio? No, io lo trovo fantastico, devo dire, appunto questo jungle portato con strumenti, che tra l'altro è molto complicato, devo dire, tecnicamente è una delle cose forse per un batterista più complicate da eseguire. Io lo trovo fantastico, anzi ti ringrazio di farmi conoscere queste cose, quindi accompagnerò la tua trasmissione, mi sarà molto d'aiuto per scoprire nuove cose. Eh sì, qui i batteristi si sono lasciati influenzare dal lavoro dei disc jockey, che hanno creato anche nuovi portamenti ritmici. Questo è un portamento tipicamente jungle, ma suonato sul serio in studio da batteristi strepitosi come Chris Daddy Dave o Mark Kohlenburg, che accompagnano Robert Glasper nelle sue esperienze live e discografiche. Questo è il soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Check, one, two. Il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. Free! Free! Free! Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. La voce ormai riconoscibile di Gregory Porter dal nuovissimo album Liquid Spirit. Questo brano era Free, che io ho ascoltato dal vivo nella passata edizione di Umbria Jazz Winter Orvieto, dove ho conosciuto Gregory Porter e che fra qualche giorno incontrerò proprio per una chiacchierata per il nostro soundcheck qui su Radio 24. Sempre in contatto con Gio Telesforo, nostro ospite Martux M, ovvero Maurizio Martuscello italiano, perché quando si parla di Martux M molti pensano che tu possa arrivare chissà da quale paese ubicato sul globo terracqueo, invece tu sei napoletano e a Napoli hai forgiato la tua cultura musicale. Beh sì, anzi devo dire che i napoletani su questo, anche sulla musica elettronica, sono dei musicisti tra i più importanti della scena mondiale, lo dico veramente, ce ne sono tantissimi molto molto importanti, a Napoli continua a essere una fucina, che dirti, insomma. Strepitosa. Mi parli del tuo lavoro, tu sei un soundmaker, un uomo che lavora con il suono. Come lavori a casa? Tu lavori col digitale, col computer, che macchine usi? Utilizzi anche strumenti vintage, che sono strumenti di annata, elettronici ma di annata? Sì, no, voglio dire, è un po' come la fotografia. Considera che la digitale è come le nostre macchine fotografiche che abbiamo oggi, digitali, che tutti possiamo usare con molta comodità. La pellicola ha un'altra grana, quindi io lavoro sia con il digitale, con i computers, ma molto con le macchine come Moog, come Electron, cioè che sono le macchine analogiche che ti danno una pasta di suono che nessun altro strumento riesce a darti. Gli amici possono pensare che questo tipo di attività è esclusivamente svolta in studio di registrazione, invece ti diverti dal vivo a proporre le tue performance coadiuvato da musicisti strepitosi. Ultimamente ti sei esibito, avete aperto con Paolo Fresu l'ultima edizione del Roma Jazz Festival intitolata Speech proprio qualche giorno fa. Come funziona un live set con l'elettronica? Beh, a quel punto no, sei come tu sei benissimo, perché tu lo fai molto bene, quindi lo sai molto bene, è un'improvvisazione, niente, siamo con Paolo, ci siamo visti 2 ore prima. Ok, ma Paolo porta la tromba, tu che porti sul palco? Io porto una marea di piccole macchinette indecifrabili che tutti vogliono conoscere. Devo dire, questa è una delle cose che anche a me piace molto, trovare una nuova macchina, la curiosità di vedere che cosa fa, quale manopoline ti fanno uscire, che cosa, è un lavoro molto alchemico, quindi molto. Però tu lavori da musicista, non da disc jockey. Il disc jockey fa il DJ set, tu fai una vera performance, quindi crei all'istante utilizzando anche dei software, programmi sul computer. Esattamente, si dividono proprio in 2 categorie nel gergo elettronico, cioè il DJ in qualche modo che mixa i dischi, vabbè ce ne sono fantastici come Jeff Mills che riesce a mixare 4 dischi in contemporanea, e invece i live set, che sono una marea di macchine che è lì, tutte pronte all'uso, e tu inizi a muovere le manovelle e loro partono. Qual è il musicista con il quale ti piacerebbe da sempre collaborare? Herbie Hancock. Perché Herbie Hancock? Beh, ma lui è stato uno che ha aperto questo mondo, sicuramente la collaborazione con Miles, che è stato uno dei primi con il suo gruppo famoso elettronico, e Herbie è stato uno dei musicisti che poi ha trascorso, anche molto criticato per questa sua scelta che molti hanno considerato commerciale, ma secondo me non lo era per niente. È criticato dai critici puristi di jazz, però. ovviamente. Poi lui ha venduto milioni di copie e quindi le chiacchiere stanno a zero, come si suol dire. Allora, per confermare quello che ci hai detto, Herbie Hancock incontra qui uno dei migliori disc jockey americani, si chiama Rob Swift, e questo è un brano scritto da Herbie Hancock collaborando proprio in studio live con Rob Swift. This is Rob Swift, Herbie Hancock al soundcheck. Let's begin with a drum set. Listen for an explosive live sound. The snare should be crisp and the cymbals should ring. If they become harsh or flat, the speaker's high frequency response is peaky or distorted. Hey yo, what's up? This is Rob Swift. And I'm chillin' with hands. You know what I'm saying? I can't flick it. Soundcheck, il suono della musica. Si parla dell'importanza del suono al soundcheck di oggi con Martux M, ovvero Maurizio Martuscello, professore in suoni, sounds maker d'eccezione, da poco reduce dal festival jazz nuova edizione che si svolge a Roma in questi giorni. Proprio tra l'altro c'è un nostro amico che si esibisce, lo abbiamo già ascoltato, l'abbiamo presentato, l'abbiamo intervistato, Fabrizio Bosso, ci sarà il 31 ottobre. Parliamo di Fabrizio Bosso, che sarà l'auditorium parco della musica nella Sala Petrassi, proprio perché Fabrizio è uno dei protagonisti di questa tua nuova pubblicazione. Come è nato questo disco nuovo intitolato Imagine? Guarda, Imagine nasce purtroppo da ciò che attualmente è motivo di attualità. Dopo aver visto un servizio in TV sugli sbarchi a Lampedusa, insomma, devo dire che la condizione dell'uomo mi sembrava veramente molto triste, e allora mi è venuto, per riconciliarmi un po' con la vita, rimettermi un po' di buon umore, casualmente lì sulla mia scrivania Imagine di John Lennon, l'ho messa e riascoltando quelle parole mi è sembrato tutto così veramente utopico. Ho detto: no, ma bisogna questo inno alla pace e a un mondo migliore, bisogna riproporlo con l'elettronica e col jazz. E i miei amici di percorso, Fabrizio Bosso, Francesco Biarzatti e Evin Dorset, hanno subito sposato l'idea e abbiamo, non è una cover, ma è un'idea di reinterpretare quel testo attraverso il suono e la musica, ed ecco il prodotto che è venuto fuori. Come avete lavorato in studio? Tu hai programmato sul computer, poi siete entrati in studio, hai registrato i ragazzi? No, guarda, la cosa è andata invece abbastanza come una session abitualmente di jazz, cioè c'era un percorso, alcune cose che avevamo stabilito, sia armoniche che ritmiche, e poi siamo messi là e abbiamo registrato insieme ed è venuto quello che ascolterete. Dal nuovo disco ho scelto un brano che si intitola The World Is One. Che tipo di composizione è? Certo che hai orecchio, devo dire, perché questo è il brano che l'auditorium Parco della Musica, che la nostra produzione, spinge come brano, insomma, che caratterizza il disco. È un brano dub, quindi come tutti conoscete il dub è una versione elettronica di ciò che era il reggae, che ha in sé uno forse dei massimi esponenti di questa musica, sono i Massive Attack, che conoscerete tutti, ed ecco che insomma alla fine cosa è venuta fuori invece innescandolo con il jazz. Sound originale e contemporaneo di Martux M Crew con Fabrizio Bosso, Francesco Biarzatti e Evin Arset. Questo nuovo album intitolato Imagine lo troverete nei migliori e nei peggiori di dischi, oppure si trova anche su iTunes? Assolutamente sì, quindi lo troverete ovunque. Allora, tu parlavi di dub, che è una forma contemporanea elettronica di rivisitare il reggae, e quindi io vorrei lasciare gli amici di Radio 24, chiudendo questo appuntamento del nostro soundcheck, con il comandante generale del reggae di tutti i tempi, Bob Marley. Beh, non si riesce a darti un input che già ce l'hai pronto come l'asso nella manica, lo cacci fuori in un secondo. E beh, che dirti, non potevi fare di meglio. Grazie Maurizio, è stato un piacere, grazie. Grazie a te, grazie a Radio 24 per avermi ospitato. Soundcheck. Il suono della musica.